Adesso ti metto le mani in bocca, come l'hip hop della giornata. Se la cagata ti ammazza, la devi pagarlo a cara come fanno tutti. Oggi! Che minchia di scuola! Ieri! La minchia di scuola! Cazzo! Cazzo! Merda! Merda! Cazzo! Cazzo! Te ne fotte! Avevo voglia di stare a guardare in giro della classe, avevo voglia di non studiare a matematica per tutta una cazzo di ora. C'è gente che parla che strozzi a vicenda, come non te la permetti di andare all'infermiera. Tanto un sacco di cose che fai tu, il temento vare non te lo studi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mi sore la pressione delle sale.